Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Lo si pensi anche un artefatto della cinematografia per il diletto di bimbi e donnine. E ridano pure questi orgogliosi e fieri fotogrammi scritti col sangue e il sudore degli eroi. Per quel che concerne noi, fortissimamente affermiamo questo puro, mero, meraviglioso e pur incontestabile fatto storico che intero s'annuncia e si rapprende in questa semplice e pur lapidaria frase. Alle ore 15 del 10 maggio 1939, Marte è fascista. Questa era la fantasia di Corrado Guzzanti. Il colonialismo estremo, si colonizza Marte. Sì, ma oggi cosa sta pensando il mondo intero? Tutti stanno pensando, che bello, andiamo tutti su Marte. Già vedo sui giornali le previsioni, è già nato il bambino che andrà a colonizzare Marte. Quindi fascisti su Marte, in realtà sarà terrestri su Marte. Perché? Perché la NASA, per la settima volta, penso negli ultimi anni, ha annunciato che su Marte c'è l'acqua. Ci sono dei rivoli di acqua salata che appaiono l'estate e scompaiono l'inverno, esattamente il contrario degli affluenti dei fiumiciattoli della Niene, di tutti i fiumi del mondo. Però su questo oggi inanelliamo una domanda importantissima: se su Marte c'è acqua, su Marte c'è o c'è stata vita? E questo quanto cambierà le nostre convinzioni sulla cosmologia, sulla fede, sulla cognizione che noi siamo soltanto gli unici ad essere esseri viventi, senzienti, con una visione metafisica in questo granellino infinitesimale di polvere che si perde nell'universo? Trovata l'acqua su Marte, sono piccoli ruscelli salati che scorrono per alcuni giorni all'anno sul pianeta rosso. L'annuncio dai ricercatori dell'Istituto di Tecnologia della Georgia che hanno elaborato foto dal satellite. Ora è ufficiale, c'è acqua su Marte. Acqua liquida e salata. Scorre in minuscoli ruscelli che periodicamente appaiono, lasciando striature scure. Striature già osservate, ma di cui fin qui si ignorava l'origine. A fornire la prova scientifica di una notizia che periodicamente rimbalzava come ipotesi sulle cronache dal pianeta rosso, i dati forniti dalla fotocamera ad alta risoluzione montata sul satellite americano Mars Reconnaissance Orbiter, che ha individuato sulla superficie... Oddio, a essere proprio malizioso, le foto che vedo sui giornali con la didascalia, le evidenti tracce scure lasciate a rivoli d'acqua, vedo una foto metà nera, un po' rosa e un po' bianca, con delle graffiature... potuto fare con Photoshop, che chiunque potrebbe attribuire, non so, a qualche tempesta spaziale. Però questo è il segno dell'acqua, sono evidenti tracce che c'è l'acqua su Marte. E se c'è l'acqua su Marte cosa significa? Io ricordo un bellissimo romanzo di Philip Dick, Total Recall, hanno fatto anche un film in Italia, Ratto di Forza, con Schwarzenegger, in cui c'era un rapporto particolare tra onirico e reale, tra Marte e la Terra. Alla fine i terrestri vanno su Marte e scoprono che una civiltà aliena aveva lasciato una sorta di meccanismo sotterraneo che mandava dei missiloni che faceva esplodere la crosta di ghiaccio di Marte, veniva fuori l'ossigeno e Marte veniva terrorizzato. Marte improvvisamente appare il cielo azzurro, cresce l'erba e diventa come la Terra, esattamente come fascisti su Marte. Abbiamo colonizzato Marte. 8 00240024, ci credete che colonizzeremo Marte? Vorreste andare su Marte? Ma se esiste Marte con l'acqua, esistono anche i marziani, allora come la mettiamo rispetto a tutte le nostre convinzioni più tenaci? Beh, questo naturalmente sono domande che non hanno immediata risposta, ma intanto sulla scoperta scientifica voglio sentire Patrizia Caraveo. Buongiorno. Buongiorno. Che è un'astrofisica, direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano. Faccio male a essere così scettico, oppure in realtà veramente è un momento epocale per l'umanità questo? Io condivido pienamente lo scetticismo. Il grande annuncio della NASA è una rifrittura di cose che già si sapevano. Le bellissime immagini a cui si fanno riferimento e si fa riferimento, in verità, se uno va a vedere la didascalia, sono del 2011. Quello che è nuovo adesso sono dei dati spettroscopici, quindi non c'entrano niente le immagini, sono le lunghezze d'onda che vengono assorbite da pezzi di terreno che sono state studiate, e sulla base di questi assorbimenti si è trovata evidenza della presenza di sali idrati. Allora qua bisogna avere un pochino di cultura chimica, ma idrati vuol dire che in qualche modo contengono l'acqua. C'è passata l'acqua, perlomeno c'è passata l'acqua. L'acqua. Quindi, tra l'altro, se l'acqua contiene molti, molti sali, sono dei perclorati, questi qui, abbassa il suo punto di congelamento, quindi può resistere liquida un pochino di più prima di congelarsi. Però allora acqua liquida non ce n'è traccia ancora, non c'è evidenza scientifica. Ma non c'è e non ce ne può essere, continuiamo il discorso, perché su Marte c'è un'atmosfera che è meno di un centesimo di quella terrestre, quindi non c'è la pressione atmosferica fondamentalmente. E infatti Schwarzenegger nel film che ho citato all'inizio che è un suo incubo, gli si rompe la tuta pressurizzata, esplode, si vede che si gonfia, esplode. Assolutamente. Quindi oggi quello che dicono i giornali, che probabilmente siamo tutti per partire per Marte, ce ne sta ancora di tempo. Cioè sicuramente una missione e diverse missioni su Marte stanno per partire, sicuramente bisogna pensare a una missione umana ben progettata per andare a grattare le sabbie del pianeta rosso. Sicuramente Marte è la prossima grande frontiera dell'esplorazione umana nello spazio, ma diciamo così, questo annuncio così plateale della NASA insomma ricorda un po' quello di qualche mese fa, la Terra 2.0, il pianeta fantastico che assomiglia alla Terra. Dopodiché si va a vedere i dati veri, ce ne sono 20 di pianeti così, perché quello lì è più bello degli altri? Beh, diciamo che forse in questi ultimi mesi la NASA ha assunto un marketing molto creativo e ci ricorda al mondo che esiste, che ancora vanno in giro per lo spazio, e questo ha un senso. Grazie Patrizia Caraveo, tra un istante 800 24 00 24. Noi andiamo avanti lo stesso, però vogliamo ipotizzare che i marziani da qualche parte ci siano, perché se hanno lasciato la traccia di roccia in cui è passata l'acqua, qualcuno è andato lì, o sono andati a fare la pipì tanti secoli fa e oggi è rimasta traccia, o lì veramente c'è stata una civiltà. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Non abbiate paura. Non vi faremo del male. Vi prego, accettate le nostre scuse. Ci dispiace che il nostro arrivo abbia creato tanto scompiglio. Questo è un giorno memorabile. Credevamo di essere l'unica forma di vita intelligente nell'universo. È davvero una gioia sapere di non essere soli. Mio Dio. Il mio nome è Anna e sono il leader del mio popolo. Allora, ci dispiace che l'astrofisica, che è direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano, quindi una delle astrofisiche che più può a titolo per parlare rispetto alla scoperta dell'acqua su Marte, abbia lievemente abbassato il livello di attesa. Però sono convinto che questa mattina molte persone che hanno letto questa notizia cercheranno, comunque troveranno conferme a quelle che sono loro convinzioni radicate, anche controcorrente, anche eretiche rispetto a quello che è il credo ufficiale e il pensiero scientifico. Probabilmente uno di questi è Lorenzo Fossati. Fossati, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Allora, Lorenzo Fossati è uno studioso di quella disciplina che si può chiamare, non so se sbaglio, ufologia o sbaglio. No, va benissimo, ufologia. Comunque, diciamo, è una persona che è convinto che al di là, diciamo, delle tracce di acqua o di residui acquosi su Marte, è impossibile non pensare che ad altri pianeti e altre civiltà possono comunque essere passati a dare un'occhiata sulla Terra, a colonizzarla, qualcuno dice addirittura a creare la stirpe umana o via dicendo. Ecco, lei come ha reagito invece alla notizia dell'acqua su Marte? Ha avuto un tuffo di soddisfazione? Allora, diciamo che, come diceva la signora prima, era già nell'aria da tempo questa notizia. Questa notizia era già nell'aria da tempo. Come diceva sempre la signora prima, se c'è presenza di sale in, all'interno dell'acqua, l'acqua ci mette molto molto molto di più a, a ghiacciare, in poche parole. C'è in questo momento una atmosfera molto molto molto piccola, diciamo, in, su Marte, però questo nella parte superiore. Ma nella, nel sottosuolo non ci siamo ancora andati. Non Beh, come Philip Dick aveva ipotizzato che ci fosse la possibilità di rendere il pianeta ossigenato, quindi terrestre, mettevano questi sorta di piloni atomici che entrano nella crosta ghiacciata, si sprigionava acqua con una reazione chimica e diventava un pianeta abitabile. Ma al di là, diciamo, delle ipotesi e delle evidenze scientifiche, quanto questo in qualche maniera conforta l'idea che altre, altre civiltà, altre specie non umane siano passate per il nostro pianeta? Beh, molto, perché vuol dire che lì ci potrebbe essere stata una civiltà, comunque una civiltà che ora non c'è più. Ricordiamo che ai poli ci sono i ghiacci di Marte, in tutti e due i poli. Quindi una civiltà dove c'è acqua, dove c'è stata acqua, si può creare, o comunque c'è stata una civiltà. Quindi questo rafforza molto l'ipotesi. Mi scusi un attimo, abbiamo qualche telefonata, ricordo 800240024, l'ho interrotta perché c'è un ascoltatore, Samuel, che secondo me ci dà un argomento immediato di spunto, così andiamo subito a quello che è l'argomento chiave. Samuel, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sono Samuel, la mia riflessione... È il suo vero nome o un nome d'arte, Samuel? Scusa. No, Samuel, Samuel. Lei cosa pensa? Io credo, penso a sto punto che nel 1954, quando l'area 51 si è centuriata, siano arrivati per l'appunto i marziani e ci hanno modificato in qualche modo. Io sono nato nel 54, mi spieghi, perché sono molto preoccupato. In che senso ci hanno modificato? Beh, ci stanno modificando, il cambiamento è in essere, in atto. Ma genetica, modificano geneticamente le persone o l'ambiente, l'habitat, con le scie chimiche, queste cose qua? Adesso non so esattamente cosa lei stia alludendo. Purtroppo ci si mette in confronto con delle spiegazioni scientifiche diverse, con delle situazioni atmosferiche molto molto ben diverse da ciò che ci si aspettava dai marziani. Quando loro sono venuti, infatti, vedendo i poli ghiacciati come a noi, stiamo vedendo adesso i loro poli, in realtà qualche gradazione atmosferica che non è compasciata, quindi ci vorrà più tempo. Ma queste cose lei dove le ha lette? Queste rivelazioni dove? Più che rivelazioni sono riflessioni odierne che abbiamo tutt'oggi davanti a noi. Vabbè, lei fa questa ipotesi. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Ma io penso solo che acqua è salata, da quello che so io l'acqua salata secca tutto, non possiamo innaffiare neanche un orto con l'acqua salata. Vabbè, l'hanno desalinizzata, interi nel Kuwait, no nel Kuwait, scusatemi, negli Emirati con l'acqua salata ci fanno l'acqua ovunque, a Dubai, gli israeliani, si desalinizza oggi l'acqua salata. Appunto, si desalinizza, però a monte già se è salata dobbiamo fare un intervento successivo, quindi se... vuole mettere, andiamo a vivere su Marte, non voglio nemmeno mettere a bollire un pentolino d'acqua per togliere il sale, sarebbe il minimo. Ma nasce prima l'uovo o la gallina, questo è il punto, quindi se l'acqua è salata nasce prima. Va bene, vediamo se Lorenzo Fossati, che è uno studioso di queste cose, riesce a darci un po' di ordine in questi due interventi. L'idea che comunque tracce di civiltà aliena ci siano presenti nelle mutazioni ambientali, nel clima, o addirittura proprio una sorta, c'è tutta la teoria rettiliana che esisterebbero, diciamo, i rettiliani che sono identici a noi, ma in realtà da alcuni sintomi si capisce che appartengono a un'altra specie. Lei come, qual è il suo punto di vista rispetto a questo mondo che è un po' confuso, a volte è anche un po' difficile da individuare come una radice comune e un pensiero comune? Allora, la Terra è stata, come tutti i pianeti, come noi andiamo a visitare altri pianeti, è stata visitata negli anni da altre razze. E questo ce ne prove con casi come il caso Zanfretta, ad esempio, che è il caso riconosciuto dalla questura, perché il signor Zanfretta era una guardia giurata. Inizialmente, quando hanno fatto una ricerca su di lui, gli hanno tolto decreto e porto d'armi, e poi la questura gli ha ridato decreto e porto d'armi dicendo che guardi, lei ha ragione. Quindi c'è la questura che... Diciamo, le prove dei contatti ci sono. Allora guardi, però io vorrei, Fossati, che lei avesse la pazienza di ascoltare con me tra un istante, dopo l'interruzione che mandiamo adesso, un signore che in realtà non è un ufologo, non è una persona che ha studiato questi fenomeni, è un biblista, è un esegeta biblico che per anni ha letto e tradotto dall'ebraico, dall'aramaico la Bibbia e arriva a conclusioni simili alle sue pur prendendo le distanze. Questo signore è Mauro Biglino, che è un saggista, è un traduttore della Bibbia, ha scritto vari saggi interessanti. Lui dice: nella Bibbia non c'è traccia di quello che noi comunemente pensiamo legati a una tradizione di fede. Nella Bibbia c'è in realtà la cronaca di irruzioni di presenze aliene sulla Terra che hanno cambiato il mondo, addirittura hanno cercato l'uomo. Vorrei che ascoltasse dopo la pausa con noi e poi insieme commentiamo. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Innanzitutto, Biglino, mi sembra evidente dalla sua storia che leggo che lei non sia uno dei soliti propagatori delle teorie sugli UFO, lei è uno studioso della Bibbia. Sì, esatto. Diciamo, il discorso degli UFO semmai è un discorso assolutamente marginale, nel senso che non me ne importa nulla. Lei traduce dall'ebraico antico, quindi ha tradotto... Sì, esattamente. I 19 libri della Bibbia, quindi diciamo... Ne ho tradotti di più, quelli li ho tradotti per le edizioni San Paolo, ma ovviamente ne ho tradotti di più, sì. Poi le edizioni di San Paolo ne hanno pubblicati 17 col mio nome, perché gli ultimi due non li hanno più pubblicati quando io ho cominciato a raccontare, insomma, che cosa veramente leggo nei codici ebraici, che quindi è chiaro che lì il rapporto di lavoro si è interrotto. Lei ha scritto per Mondadori... Cito solo il suo ultimo libro, La Bibbia, sì, non parla di Dio, uno studio rivoluzionario sull'Antico Testamento. Ecco, sì, vediamo in ragione di quella che è la scoperta di cui parlano tutti questa mattina. Marte avrebbe tracce di acqua, quindi su Marte potrebbe esserci una probabile forma di vita. Questa è, sì, è un dato scientifico. O quantomeno esserci stata, insomma. Ecco. Esserci stata, questo rivoluziona, diciamo, tutte le nostre teorie geocentriche, che questo è il centro assoluto. Sì. Che direi sarebbe bene abbandonare comunque, al di là di ciò che uno possa pensare su altre vite o meno, ma insomma direi che sarebbe ora di cominciare ad abbandonarla. Ecco. Quanti sintomi comunque di questa idea diffusa e rivoluzionaria ha trovato nelle sue traduzioni, nella sua indagine scientifica dei testi biblici? Ma guardi, il discorso è che io ovviamente è chiaro che parto, perché questa è la mia scelta metodologica, parto dal testo biblico, chiaramente. Poi, siccome il testo biblico, come sanno tutti gli studiosi, compresi i docenti pontifici, è soprattutto per quanto riguarda i racconti delle origini una copia rielaborata di testi molto più antichi, in particolare testi sumero-accadici, ma anche testi fenici, allora è chiaro che è necessario, scusi la mia ignoranza, come dire, anche... Chi e quando ha deciso questa è la Bibbia, d'ora in poi questa sarà la Bibbia, rispetto a tutte le versioni precedenti? Ah, guardi, questo è stato deciso nei secoli, veramente, ma oltretutto noi abbiamo una delle Bibbie possibili, mi spiego, noi, quando intendo noi, intendo dire la cristianità occidentale, anzi la cattolicità occidentale ritiene veri, cioè ispirati, diciamo 46 libri dell'Antico Testamento, il canone ebraico ne ritiene veri solo 39, diciamo, il canone samaritano ne considera veri soltanto 6, quindi capisce che insomma ci sono stati vari centri, chiamiamoli così, di potere e di controllo, ciascuno dei quali ha definito un suo canone dicendo questi sono i libri a cui credere. I cristiani copti credono veri dei libri che non sono veri né per i cristiani romani né per gli ebrei, e quindi insomma diciamo che la Bibbia vera dipende un po' dal luogo in cui nasciamo, ecco. E questo già è un dato oggettivo, non è una sua idea. È un dato oggettivo, su questo proprio non c'è possibilità di discussione, questo è un dato oggettivo. Ecco, invece nella sua indagine approfondita proprio del testo, l'esegesi del testo, cosa viene fuori che è considerato, diciamo, se non altro imbarazzante rispetto alle esegesi allineate poi con le grandi religioni che fanno della Bibbia il loro testo sacro? Sì, Sì, guardi, viene fuori che in realtà la Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. Lei pensi che la lingua ebraica biblica, ma anche quella moderna, cioè non ha il termine che significa Dio. Proprio non ce l'ha. Quel termine che viene tradotto con Dio, che è un termine Elohim, in realtà nessuno al mondo ha la certezza di che cosa significhi. Ma se non è Dio il protagonista della Bibbia, di un testo sacro? No, assolutamente. Chi è il protagonista? Chi ne è protagonista? Starei per dire per fortuna, insomma, per fortuna un po' per tutti noi, perché insomma sarebbe un vero dramma se Dio fosse il protagonista. Dio se c'è, io non me ne occupo. Questo riguarda la fede dei singoli nei confronti della fede. Io non ho mai nulla da dire, perché è una scelta assolutamente personale, quindi come tale deve assolutamente essere rispettata, e chi ha fede se la deve vivere con coerenza e determinazione. Io dico solo che la Bibbia, così come i libri dell'antichità, non parlano di Dio, del Dio inteso così come lo intendiamo noi, che è un po' un frutto del pensiero soprattutto greco-ellenistico, del platonismo, dell'idealismo platonico e neoplatonico, eccetera. Quindi lì proprio si parla di individui molto concreti in carne ed ossa, insomma. Se vogliamo tradurla su un piano, diciamo, di racconto legato a questo evento qua, chi sono i protagonisti? Come potrebbe definirli? Di chi si tratta? Allora, guardi, facciamo così, per definirli uso una tavoletta che è pubblicata dalla Oxford Press University, cioè quindi nelle traduzioni degli accademici, no? Delle università. Per esempio questa qui è la tavoletta NBC 11108, nella quale si dice chiaramente che quando questi individui, e che per la Bibbia sono gli Elohim e per i racconti sumero-accadici da cui la Bibbia deriva sono gli Anunna, dice che quando questi individui ancora non circolavano sulla terra, stavano su una dimora celeste priva di vegetazione. E quindi pare dai racconti antichi, se noi facciamo finta che siano veri, ovviamente, perché questo dobbiamo fare finta che siano veri, perché magari avessimo la verità sarebbe tutto più semplice, ma non ce l'abbiamo. E quindi, facendo finta che siano veri, dobbiamo pensare a individui che peraltro i popoli di tutti i continenti della Terra definiscono figli delle stelle, e quindi o i popoli hanno inventato tutti la stessa cosa, oppure facciamo finta che si scriveva nell'antichità, riportasse cronache o comunque ricordi di cronache vere, beh, allora sono individui che sarebbero arrivati qui da altre parti, non mi chiedere da dove, perché ovviamente non lo so. I testi vedici, lei pensi, dicono che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui, e quindi, facendo finta che, cerchiamo di capire se ciò che ci hanno raccontato gli antichi ha fondamento, e vediamo che cosa ne scaturisce. Ripeto, io sono 6 anni che lo dico nelle conferenze, sempre facendo finta che, perché purtroppo la verità io non ce l'ho assolutamente, ci sono un sacco di persone, un sacco di maestri, un sacco di guru che invece hanno la verità, quindi chi vuole la verità deve andare da loro, non da me. Io sto cercando di capire. Tenendosi però, Mauro Bignino, strettamente legati a una traduzione, un'esegesi, un'interpretazione sua, quali sono i segnali più evidenti? Me ne dica un paio in cui nella Bibbia già c'è questa sono questi, presenza. Guardi, che gli Elohim nella Bibbia sono sempre considerati, intanto sono tantissimi, sono decine, molti sono chiamati per nome, cioè esattamente con il loro nome. Dalla Bibbia si capisce chiaramente che erano, almeno quelli di cui parla la Bibbia, di pari rango, cioè avevano esattamente gli stessi diritti, gli stessi poteri e direi gli stessi doveri nei confronti dei popoli che a loro erano stati assegnati dal loro comandante, che la Bibbia chiama chiaramente Elion. Dopodiché la Bibbia ci racconta che questi Elohim hanno fabbricato l'uomo, letteralmente fabbricato. Lei prima ha citato il mio libro La Bibbia non parla di Dio, di Mondadori, dove all'interno ho cominciato a pubblicare studi di biologi molecolari che stanno rilevando come il racconto biblico, e lo scrivono, sia veramente la descrizione di un protocollo di clonazione, ma proprio una descrizione particolareggiata di un protocollo di clonazione. Quindi questi individui hanno fabbricato l'Adam, la Bibbia dice chiaramente che questi individui vivono molto più dell'Adam, ma sono mortali come la DAM, quindi dà delle caratteristiche, diciamo, di ordine pratico, di ordine concreto, di ordine materiale molto molto precise, ponendo però una distinzione netta: gli Elohim non sono Adam, gli Elohim sono quelli che hanno fabbricato la DAM. Quindi esattamente tutta l'evoluzione va riscritta, perlomeno nella sua fase iniziale. Nella sua fase, diciamo, iniziale. Che ci sono dei genetisti e dei biologi che stanno prendendo in considerazione l'ipotesi che noi siamo il frutto di un'evoluzione che da un certo momento in avanti è stata pilotata, è stata finalizzata. Finalizzata a che cosa? A produrre degli individui in grado di comprendere ed eseguire ordini. Questo è ciò che ovviamente ci raccontano i testi antichi, ma se questa parte della genetica che sta prendendo in considerazione questo è, ripeto, nell'ultimo libro ho proprio pubblicato a firma a firma loro, quindi a firma dei biologi, quindi non mia, in modo che le parole sono le loro, firmate da loro, quindi non ci sono dubbi, stanno prendendo in considerazione l'idea che in effetti se noi siamo il frutto di un'evoluzione pilotata, beh, si hanno risposte a molte domande sull'origine del Sapiens, domande che ad oggi sono senza risposta. I famosi anelli mancanti. Noi siamo proprio così. Ecco, i famosi anelli mancanti a questo punto era tutta una grande... Continuerebbero a essere mancanti. Una grande sperimentazione. Una grande sperimentazione per creare una specie efficiente. Questo è ciò che pare di capire, questo è ciò che pare di poter rilevare dai testi antichi, compresa la Bibbia. Non sarebbe nulla di straordinario quello che noi facciamo con i cavalli, con i bovini. Quando noi prendiamo una specie, la adattiamo intervenendo geneticamente su quella specie, dando per assurdo, per ipotesi, che ci siano dei colonizzatori della Terra, come oggi noi speriamo di poter colonizzare Marte. Arrivano sulla Terra, cosa fanno? Creano una specie per poter rendere questo pianeta efficiente ai loro bisogni, non so, di... Direi che lei ha fatto una sintesi, diciamo, meglio della quale non si può fare. Beh, mi sembra abbastanza semplice. Ciò che ha detto, sembra abbastanza semplice, sì. No, ma infatti è semplicissimo. Sa qual è il problema? Il problema è che c'è una sorta di rifiuto a prioristico, no? Cioè molti... non è possibile. Perché non è possibile? Perché? Noi lo stiamo facendo. E perché non è possibile che altri lo abbiano fatto? Guardi, c'è il professor... Scusi, se dovrebbe essere possibile che un signore con le lettere di fuoco scrive sulle pietre le 12 tavole della legge, anche questo può essere possibile. Esattamente, allora c'è il professor Westcott che è preside della facoltà di antropologia dell'Università di Madison negli Stati Uniti, il quale scrive in un suo libro che noi come Sapiens, al di là di tutta una serie di caratteristiche, ne abbiamo alcune che sono veramente curiose, perché dice noi abbiamo delle caratteristiche sia dal punto di vista anatomico, cioè l'addolcimento di certi tratti del viso eccetera, ma soprattutto dal punto di vista comportamentale, attitudinale, caratteriale. Dice abbiamo certe reazioni emotive che sono, lo scrive nel suo libro The Divine Animal, cioè insomma l'animale divino che saremmo noi, cioè fatto da quelli là, dice che caratteristiche che sono tipiche delle specie addomesticate. E siccome nessuna specie si addomestica da sola, se per caso questo fosse vero, perché ripeto siamo sempre nel campo delle ipotesi, beh insomma sarebbe un'ulteriore conferma del fatto che qualcuno ci ha fabbricati con delle finalità precise e poi ci ha pure un pochettino addomesticati, cioè ci ha, come dire, introdotti ad un certo tipo di vita. Però tutto questo ha una sua coerenza che è abbastanza palese, insomma, per cui io dico che vale la pena, quantomeno in assenza di verità, di tenere la mente aperta, la mente libera, perché insomma alle volte la verità può arrivare dalle direzioni più inattese. Lei ha fatto un pensiero quando ha letto i giornali questa mattina su Marte, ha sentito i telegiornali ieri del genere? Guardi, siccome ultimamente sto studiando delle tavolette assire su Mero Accadiche che parlano di cose che questi hanno fatto qui intorno al 2000 avanti Cristo, le dico molto francamente che quando le collego al discorso del loro luogo di provenienza privo di vegetazione, se penso a ciò che hanno fatto qui, ciò che gli antichi dicono che hanno fatto qui, perché ripeto io faccio sempre finta che sia vero, perché non lo so se è vero, devo dire che se questi fossero arrivati da Marte dopo averla devastata non mi stupirei. diciamo l'informazione che perché ovviamente non ho nessuna prova. Alla fine le informazioni che ci hanno dato quando ci hanno costruito sono quelle di devastare il nostro pianeta, quindi cioè, in effetti lei pensi che ci sono delle tavolette a sire tipo la lamentazione di Uruk, la lamentazione di Ur, dove si dice che questi signori, dopo aver usato in un certo territorio qui, dopo aver fatto un consiglio dei capi e aver consentito l'utilizzo di certi tipi di armi, hanno dovuto abbandonare i posti in cui stavano, perché c'è scritto una frase bellissima dove dice: ma che il vento di morte arrivasse fin qui, questo chi poteva predirlo? Cioè, e devono scappare dai posti in cui stanno perché non pensavano che per via dei venti eccetera, insomma, ciò che loro avevano fatto in un certo territorio potesse arrivare a coinvolgere i luoghi stessi in cui loro risiedevano, e quindi non mi stupirei di nulla, ecco, diciamo. Quindi, così, quindi questi nostri possibili dei fabbricatori sono anche molto umani, li riconosciamo con molti dei nostri difetti. Ma quindi... guardi, quando si dice che noi, dal punto di vista biblico, noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, intendendo per Dio quelli lì, perché no? Direi che proprio l'affermazione è perfetta, è perfetta. Invece di un Dio incazzoso e vendicativo come nella tradizione, è un Dio che in realtà non considera quanto sia sventate le sue conquiste di territorio. Esatto, cioè, alle volte non è in grado di prevederle, insomma, è che questo stupisce, no? Se fosse veramente un Dio onnisciente, onnipotente. Beh, alla fine torna tutto. Grazie, professor Biglino. Grazie a voi dell'interesse. Buona giornata, buon proseguimento. Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta. Melog, cronache meridiane. Milioni di persone in tutto il mondo credono che in passato siamo stati visitati da esseri extraterrestri. E se fosse vero? È possibile che antichi alieni abbiano contribuito a forgiare la nostra storia? E se fosse così, potrebbe esserci un legame tra gli alieni e questi strani esseri chiamati rettiliani. Siamo partiti da una notizia con delle parvenze scientifiche, poi in parte ridimensionata, siamo arrivati alle parvenze aliene che si celano in molti umani. 80024 0024, vedete come da un titolo che emotivamente prende molto sui giornali si arriva poi a far emergere il nostro sommerso sulle nostre origini, al di là degli atti di fede, delle pratiche quotidiane. Guido, buongiorno. Buongiorno. Come la pensa? La penso che io non metto la lingua sulle teorie e sugli assunti, ma mi chiedo se ci sono stati degli alieni. Ma nemmeno sui presunti. Assolutamente. Ma se ci sono stati. Meglio non metterla mai lingua, lasciar dire agli altri. Infatti, ma se ci sono stati degli alieni che sono scesi sulla Terra con aerei, perché non hanno lasciato traccia di questa tecnologia, di questa civiltà, e perché non hanno continuato a dominare il mondo come avevano intenzione di fare, ed è scomparso tutto. Questo dà il destro per un'ottima risposta a Lorenzo Fossati, che abbiamo fatto ascoltare fino adesso, anche la teoria dell'esegeta biblico, che non è assolutamente una persona che si occupa di fantascienza, è appassionato di ufologia. Allora, alla domanda di Guido, se queste presenze che ci hanno colonizzato, creato, studiato, creato a laboratorio e tutto, ci sono state veramente, perché abbiamo così poche tracce oggettive, ci si lega soltanto all'interpretazione dei graffiti, delle piramidi, delle pitture azteche o di quelli che vengono considerati ai margini della letteratura scientifica, Fossati? Allora, siamo stati visitati fino ad ora da 160 razze completamente diverse, dai rettiliani ai pleiadiani, alle barane ariani, ai grigi, e addirittura io mi spingerei a dire molto di più. Ma come erano fatti queste qua? Uguali a noi o molto diversi? No, anche diversi. Ad esempio i grigi si possono trovare come figure su tutti i siti di ufologia. Praticamente i contattisti hanno dato le loro, diciamo, quello che hanno visto. I grigi sono piccoli, con occhi tipo vespa praticamente, e sono una razza che attualmente quelli di Roswell, ecco, quelli che sono caduti a Roswell. Ecco, però diciamo sono mimetizzati quando stanno, diciamo, a contatto col genere umano, perché se no li vedremmo per strada fare shopping, circolare, o no? No, attualmente qui in presenza sulla Terra attualmente non c'è nessuna razza. Vengono perché l'universo, praticamente il sistema solare e tutto quello che è, sono delle piccole autostrade e i pianeti sono dei piccoli autogrill. Noi siamo l'autogrill di 160 razze aliene, praticamente. Esatto, praticamente vengono. Ma quando vengono qui, invece che la noce di prosciutto al pepe, cosa si prendono? Praticamente energia, quello che gli serve. Ci sono accordi con tutti, praticamente, gli stati. Tutti i capi di stato sanno che ci sono oggetti che vanno e che vengono. Ad esempio, ci sono anche delle linee ANFO, praticamente dal creatore che si chiama ANFO-C, praticamente. Queste linee sono tutti i piloti aerei militari e non sanno che ci sono delle linee dedicate a lui. E questo, diciamo, è tutto diciamo, questo universo che vive negli interstizi dell'informazione ufficiale, che ogni tanto porta prove a supporto di questa teoria, che in realtà sia un fenomeno conosciuto, che tutti i capi di Stato ma sono legati da un segreto condiviso. È l'unico segreto che non esce fuori mai, cioè Putin non lo dirà mai, come non l'ha detto mai Nixon, non l'ha detto mai Jimmy Carter, non l'ha detto mai nemmeno, nessuno lo dirà mai questa cosa qua. Perché sono così legati a questo? Io fossi un presidente, soprattutto dopo che mi cacciano via per una cosa così banale come una pompa di una stagista, lo direi subito. Adesso vi dico degli alieni, perché nessuno l'ha mai detto? Perché ci sono degli accordi, praticamente ci sono degli accordi che non permettono di dire alla popolazione, e poi ci sono anche le religioni da tenere in piedi, diciamo, tutte queste varie religioni. Lei è d'accordo con la teoria del biblista che ha sentito poco fa? Sì, ma oltretutto lo conosco e quindi sono pienamente d'accordo, perché intanto l'Antico Testamento è un testamento di guerra, in realtà. Si parlano di varie guerre, di varie, addirittura gli Elohim è plurale, quindi si parla di dei, non questa è anche una teoria, diciamo, teologica, che in realtà all'origine del monoteismo ci fosse un politeismo, ma entriamo in territori troppo complicati da spiegare. Questa mattina ci bastava dare soltanto un veloce assaggio, come dietro a una notizia che riempie i titoli dei giornali ci fosse un universo che forse vale la pena di scandagliare. Grazie Chiappini, grazie Intonti, a domani.